in studio, via Zanardi, Radio Città Fujiko, alle 7:47 minuti dopo il GR di Radio Popolare per la giornata di martedì. Quindi è arrivato questo lavoro, questo libro che vi presento per lo spazio che dà anticipo al Move to Groove. E allora, visto che oltre a due parole con l'autrice Lorena Grattoni, scambio due parole anche con voi, e non solo a proposito del contenuto di questo lavoro intitolato La pistola di Antonio Ferdinando Navarro, thriller. Stiamo parlando di indagini e il quiz di oggi è per arrivare a un personaggio protagonista al termine degli anni 70 e inizio anni 80 a proposito di indagini. Dico solo questo, un po' l'epoca, il periodo e l'innovazione nella struttura del giallo, nel plot del giallo e la comunicazione con i telespettatori. Sapete, no? Colombo, ad esempio, ne dico uno, aveva questa scelta, già svelava il criminale, l'assassino, già lo svelava e in maniera, con delle attenzioni che parevano non aver nulla a che fare per indicare questo interrogatorio continuo, lo portava poi con dei metodi che parevano non essere così interessati a portarlo come indagato, e poi alla fine lo inchiodava con questo amichevole modo estenuante di portare domande e indagini al protagonista criminale nella serie Colombo. E ce n'è un'altra che a me è piaciuta tantissimo, ne hanno fatto poche puntate, secondo me ha delle caratteristiche anche questo abbastanza uniche. Avremo modo di parlarne poi tra una chiacchiera e l'altra che ho avuto con Lorena Grattoni, l'autrice di La pistola di Antonio Ferdinando Navarro. Se svolge, è ambientato in un piccolo paesino, un polesine di montagna se vogliamo, tra Bologna e Pistoia, e si inizia subito nella narrazione per quanto riguarda l'ambientazione che conosceremo grazie alle parole di Lorena Grattoni. Allora, questo è il secondo romanzo che tratta in realtà il paese di Campeda, che è il vero protagonista di questi due romanzi che ho scritto finora. Uno è Morto in Canonica, il primo, e poi La pistola di Ferdinando Navarro, il secondo. Il terzo romanzo è ancora in via di deve essere ancora ultimato, comunque già bello definito. Perché parlo di Campeda? Campeda è un paese di 19 case e una chiesa dell'Appennino tosco-emiliano, dove non ha una strada per arrivarci, ma una mulattiera allargata a mano negli anni 70 dai paesani, e quindi si sale a senso unico alternato. È un paese molto particolare che non conosce nessuno, neppure il sindaco di Sambuca, che è la frazione principale dal quale dipende Campeda dal punto di vista istituzionale, giuridico, e non era mai arrivato a Campeda fino a quando non ha letto di questi romanzi. In realtà io ho inventato una famiglia allargata dove Don Antonio Buonanni, il parroco del paese, gestisce un po' tutte le attività del paese, amato più o meno dai paesani perché ha un vissuto come prete operaio a Firenze e per punizione dalla curia è stato mandato a Campeda, e da lì si snocciolano un po' di vicende che hanno appunto la scusa di raccontare del paese facendo riferimento però a dei personaggi più o meno ispirati dalla realtà. Una compagnia che arriva a visitare questo paese, vi è anche un personaggio strano che deve portare con sé questo revolver antico che è stato in possesso di un cavaliere maltese. Però qualcosa va storto, e troveremo poi nel lavoro di Lorena Grattoni, che ha dato il via per quanto riguarda dove è strutturato questo giallo, e poi il percorso che sentiremo a breve per avere questo lavoro protagonista un indagatore, un ragazzo alto, anche belloccio se vogliamo, sempre accompagnato dal padre, e aveva, vi ho descritto le modalità di indagine di Colombo, no? Con questo impermeabile uno sottovalutava anche le capacità di indagine, perché parlava di tutt'altro tranne che del fatto o misfatto, per inchiodare il protagonista che si sentiva sicuro, per poi finire così condannato e scoperto nelle ultime battute. Cosa faceva invece il protagonista del nostro quiz, al quale chiedo a voi il nome e cognome al 333-180-9494? Siamo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, veniva costantemente accompagnato dal padre nelle sue indagini. A un certo punto, e questa è l'innovazione nella scrittura che per me era meravigliosa, tutto un altro andare per quanto riguarda sitcom, sceneggiati e tutto quello che era una diffusione anche per l'intrattenimento, beh, lo sappiamo bene, non per fare il passatista, ma è così. Comunque lui si rivolgeva allo spettatore, al telespettatore, a un certo punto bloccava la scena dove c'erano gli indagati, si rivolgeva direttamente guardando in camera, entrando in camera e dialogava direttamente col telespettatore, facendo un piccolo riassunto insomma della situazione, diceva: e voi avete capito chi è l'assassino? È meraviglioso. Bravo Lino, sì, il lavoro di Lorena Grattoni, la pistola Antonio Ferdinando Navarro, il thriller è Ellery Queen, grandissimo Ellery. Sarebbe un cavaliere maltese e la sua pistola ha vissuto con lui diverse avventure. Alcuni di questi personaggi che animano il paese, soprattutto d'estate, perché d'inverno il paese è deserto, ci sono pochissime anime, però appunto, come dicevi, d'estate ci sono tantissime strade che portano a Campeda e tantissimi percorsi. Anche questo è uno spunto per far conoscere il paese, perché effettivamente chi è amante del trekking può usufruire di questi percorsi e godersi veramente i boschi dell'Appennino e anche delle piccole chicche, perché non dimentichiamo che a Campeda, ad esempio, che è un paese sì di 19 case e una chiesa, ma è un paese che nasce attorno a un oratorio del 600. Questa piccola chiesa è del 1700 e quindi vale la pena di essere visitata. La scusa appunto del trekking è quella di andare a visitare questo paese, questa chiesetta restaurata, e da lì comincia a dipanarsi tutta la vicenda, perché al paese d'estate arrivano tutti i figli o i nipoti di chi ha abbandonato negli anni 50 quelle terre per cercare una vita migliore. E attorno al personaggio principale di questo romanzo, che è l'avvocato Cucchi, nativo di Campeda, che torna al paesello dopo diverse vicissitudini sue familiari ed è anche un collezionista d'arte, insomma da lì si dipana un po' la storia di questa misteriosa pistola che sparisce, e poi non vi svelo altro perché altrimenti... Mm-hmm. grazie per la precisazione e anche per aver giocato con il Breakfast Club. La risposta è esatta, Ellery Queen. Sigla bellissima, molto stilosa, era anche lo pseudonimo dell'autore. Ne ho letti tanti al mare di Gialli Mondadori con questo personaggio. Allora, leggerai anche la pistola di Antonio Ferdinando Navarro con l'autrice Lorena Grattoni. Ne hai letti tanti al mare. Guarda caso, appunto, sarà una citazione che farà l'autrice a proposito di questo lavoro. Ma c'è da dire una cosa su Don Antonio Bonanni, che non è mai giudicante, nonostante lui sia, diciamo, la persona che riesce in questi miei romanzi a sciogliere la matassa degli eventi, non si pone mai dalla parte del torto, della ragione, cerca sempre di capire il perché delle situazioni, e questo secondo me lo rende un personaggio interessante. Ecco. Pubblicazione con la Pegaso Edizioni nasce proprio dalla vittoria di un concorso che è Milano International, che è un concorso importante che mi ha permesso appunto di vincerlo e di avere la pubblicazione del testo. Ma non solo, cioè è di un mese fa un'altra premio legato a un altro premio letterario molto importante, che è il Premio Internazionale a Sarzana, che mi ha pregiato di prendere in considerazione questo romanzo come uno fra i romanzi da premiare. Sì, appunto, dicevo in fuori onda, Lorena, durante questa conversazione, poi l'intervista realizzata da Andrea Utensili Pelè, che ringrazio per aver portato poi al Breakfast Club la pistola fumante di Antonio Ferdinando Navarro, Lorena Grattoni ha detto sì, potrebbe nascerne poi una serie e potete tranquillamente portarli in vacanza come facevi tu, Lino, con i libri di Ellery Queen. Un po' di musica, poi andiamo in pubblicità. Il Mood Groove prevede la partenza con un saluto. Qui veramente la Spoon River del basket purtroppo non si ferma. Recentemente scomparso un atleta che ha lasciato in Italia ricordo, rimpianto allo stesso modo, insomma una storia controversa e travagliata. Poi un ritorno, un giocatore che ha avuto anche spazio nella NBA. Stiamo parlando del grande basket, stiamo parlando dei primi anni 80, l'approccio con l'Italia, l'allontanamento dall'Italia, il ritorno in Italia, gli anelli vinti in NBA, eh sì, perché questo personaggio ha vinto due anelli NBA, il secondo, diciamo, un po' indotto dall'essere presente nel roster, ma non da protagonista. Il primo con gli storici Philadelphia 76ers, comunque, ma ne parleremo anche perché la notizia è arrivata da qualche giorno, la scomparsa di Earl Cureton, the Twirl, la piroetta. Sarà uno dei protagonisti al Mood Groove di oggi, tra ricordo, rimpianto, che è un po' un tema di filosofia collegato al nostro perché sui 103.1 tra poco Mood Groove.